Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. I nostri clienti sono molto ricchi. Abbiamo reciprocamente dei segreti. Manterrò nel più stretto riservo e custodirò inviolati i segreti del mio cliente. Il segreto bancario è stato siglato a Milano uno storico accordo tra Italia e Svizzera per porre un freno all'evasione da parte di chi esporta illecitamente ingenti capitali nell'ormai ex paradiso fiscale. Abbiamo appena firmato un testo giuridico che riguarda lo scambio di informazioni. Si inquadra in un processo internazionale che ha assunto negli ultimi anni una intensità crescente. La Confederazione Elvetica dunque esce dalla blacklist dei paesi che favoriscono l'evasione. Così dice Padoan, si pongono le condizioni per maggiore trasparenza e fiducia tra Stato e contribuenti. Ho solo pensato che fosse importante per me conoscere a fondo la precisa collocazione e composizione di tutte le vostre proprietà e attività. Io saprò già tutto, fino all'ultimo penny, marco, franco e sterlina. Dopo la firma dell'accordo fiscale tra Italia e Svizzera, siglata a Milano appunto, che cosa cambierà per chi ha un conto corrente in Svizzera? E soprattutto, che passi avanti fa fare questo accordo per una maggior trasparenza e legalità? Salvatore Padula, giornalista del Sole 24 Ore. Renzi ha twittato miliardi di euro che ritornano allo Stato. È veramente così, Salvatore? Diciamo che questo è l'auspicio, è quello che un po' tutti si aspettano. Ma c'è un'idea del quanto? Non c'è un'idea del quanto. Qualcuno parla di 7-8 miliardi, qualcuno un po' di meno, qualcuno un po' di più. Il tutto è legato a come andrà questa grande operazione che è partita in questi giorni, che si chiama Voluntary Disclosure e che riguarda la possibilità di riportare in Italia capitali che stanno illegalmente all'estero. Ecco, Salvatore, è veramente un buon affare questo accordo per l'Italia, diciamo? Io penso che l'accordo per l'Italia abbia molti, molti elementi positivi. Si può dire che è una svolta epocale? Certamente è una soluzione, un accordo che fino a un po' di anni fa era veramente difficile immaginare. Sì. Salvatore Padula, in concreto, qual è la cosa che qualifica di più l'accordo? Sono due parole magiche, scambio di informazioni. Prima dell'accordo le autorità italiane potevano ottenere dalle autorità svizzere informazioni sui conti, sui depositi, solo attraverso procedure di rogatorie molto complesse e solo in presenza di gravi ipotesi di reato. Con l'accordo invece lo scambio di informazioni diventa a richiesta, cioè io, amministrazione fiscale italiana, chiedo alla Svizzera e la Svizzera mi risponde. Cioè io, Agenzia delle Entrate, chiedo e automaticamente arriva la risposta. Ecco. Diciamo, nei primi anni non automaticamente, dal 2018 in poi addirittura automaticamente. Perché prima come sarà gli effetti prima dell'accordo? Su richiesta, quindi io mando un nominativo e le autorità svizzere rispondono per quel nominativo. Dal 2018 invece tutti i cittadini italiani che avranno un conto, conti, attività in Svizzera verranno segnalati all'autorità italiana. Per firmare velocemente questo accordo, i due paesi però hanno rinviato il confronto su alcuni temi specifici. Sì. La concorrenza fiscale e la regolamentazione dei servizi finanziari. In due parole, di cosa si tratta? Guarda, si tratta di due aspetti. Il primo legato al trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori frontalieri, no? Un problema molto sentito per chi vive, insomma, certo, al confine tra Italia e Svizzera. E l'altro aspetto riguarda, diciamo, il libero accesso delle banche svizzere al mercato retail italiano, quindi alla possibilità di esercitare, diciamo, in modo più esteso l'attività bancaria in Italia da parte delle banche svizzere. Ecco, ma perché è stato rinviato il confronto su questi temi? Perché la discussione su questi due temi aveva ancora bisogno di approfondimenti, però c'era l'urgenza di arrivare a una firma, perché l'accordo siglato il 23 è fondamentale proprio ai fini della voluntary disclosure, del rientro dei capitali. Abbiamo parlato dei vantaggi per l'Italia. La Svizzera, sì, cosa ha ottenuto in cambio di questo accordo? Quando l'accordo verrà effettivamente firmato, sì, cioè è anche recepito dai rispettivi parlamenti, la Svizzera uscirà dalla blacklist, cioè dalla lista nera dei paesi paradisi fiscali. E poi c'è da dire un'altra cosa, che anche la Svizzera si è dotata di leggi, ad esempio contro l'autoriciclaggio, per cui è molto difficile anche per loro detenere nelle loro banche capitali che abbiano provenienza illecita. In questo modo la Svizzera si garantisce in prospettiva di poter tenere nelle proprie banche capitali italiani che hanno un'origine chiara, pulita, trasparente. Padoan firma un accordo anche con Liechtenstein in materia fiscale, è uguale? Beh, ovviamente ci saranno alcune tecnicalità diverse, sì, ma nella sostanza. Nella sostanza è uguale. Aggiungo che si dice è probabile che anche con Monaco verrà firmato un accordo simile entro lunedì prossimo. Quindi si può dire che stanno cadendo uno per uno tutti i paradisi fiscali? Ce ne sono ancora tanti, però... Sì, ce ne sono tanti. Insomma, come sappiamo, il contrasto ai paradisi è diventato una priorità a livello internazionale quando è esplosa la crisi del 2007-2008. Tutti i paesi sono alla disperata ricerca di nuove entrate fiscali. Il percorso è stato avviato anche in sede OCSE, dove sono stati fatti, insomma, tantissimi accordi di cooperazione internazionale. È un percorso ancora lunghissimo, i paradisi fiscali ovviamente ci sono ancora, ma quello che conta e quello che forse anche l'accordo con la Svizzera ci dice è che chi vuole tenere i quattrini nei paradisi fiscali che ancora esistono deve accettare un rischio molto maggiore rispetto al passato, perché sono comunque paesi dove è più elevato, diciamo, il rischio geopolitico. Ecco, ma nel frattempo aumentano o diminuiscono i paradisi fiscali? Perché noi abbiamo parlato di quelli così più vicini e più storici, se vogliamo dire. Diminuiscono quelli storici, perché appunto la Svizzera, certo, esce, uscirà il Liechtenstein, uscirà Monte Carlo, eccetera. Quelli, diciamo, più lontani e, ma ripeto, meno sicuri, non mi sembra stiano in nessun modo diminuendo. Ecco, ma in qualche modo, diciamo, il mondo incomincia a accettare l'idea che la trasparenza è un valore veramente da perseguire. Sì, con le eccezioni che abbiamo detto, io sono convinto di sì, anche perché, lo ripeto, perché questo secondo me è fondamentale, i paradisi ci sono ancora e resteranno ancora, ma chi si fida più a lasciare i soldi, diciamo, in quei paesi? Un conto è tenere i soldi in Svizzera, un conto è tenere i soldi, diciamo, in altre località. Certo, il rischio diventa molto belle più dal alto punto di vista esatto. Delle vacanze. Esatto. 800240024, numero verde, 349-238-6666 di SMS. L'accordo per la trasparenza, dicevamo, bancaria tra Italia e Svizzera, è un accordo legato anche alla dichiarazione volontaria di beni o attività non dichiarati prevista dalla legge di stabilità. Ma quante volte in Italia sono stati adottati gli scudi fiscali? Abbiamo fatto un'indagine, fino ad oggi sono stati fatti 3 volte, nel 2001, nel 2002 e nel 2009. In tutti e 3 i casi il contribuente godeva dell'anonimato, mentre con questa dichiarazione volontaria l'anonimato non c'è più. Con questi 3 scudi sono stati rimpatriati circa 150 miliardi di euro. Un'altra grande differenza tra gli scudi passati e questa dichiarazione volontaria in vigore dal 1 gennaio sono le sanzioni. Nei primi 2 scudi fiscali, chi riportava il patrimonio in Italia doveva pagare il 2,5% sul totale. Nel caso dello scudo del 2009 si pagava il 5% sul totale dell'importo scudato. Oggi invece le sanzioni sono maggiori, perché chi vuole uscire allo scoperto e mettersi in regola dovrà pagare in un'unica soluzione tutte le tasse evase, più gli interessi e infine anche una sanzione aggiuntiva. Sanzione che varia a seconda dell'ammontare del patrimonio, cioè se è superiore o minore ai 15.000 euro, e a seconda della provenienza, cioè se si tenevano questi capitali in paesi che fanno parte della blacklist, si pagherà di più. Mentre se si tratta di paesi che appartengono alla whitelist, si pagherà più o meno la metà. L'unico paese europeo che non prevede questa sorta di, diciamo così, di pace fiscale tra lo Stato e gli evasori è la Grecia, che però sta per adottarlo. È in vigore invece in tutti gli Stati membri dell'Unione, come Francia, Germania, Gran Bretagna, eccetera, anche se con differenze marginali tra Stato e Stato. Guglielmo Maestro è professore associato di diritto tributario internazionale comparato all'Università Cattolica di Piacenza. Ecco, professore, dal 2 gennaio è possibile per il contribuente dichiarare beni o attività all'estero. Perché il contribuente dovrebbe autodenunciarsi al fisco? Ah, ci sono principalmente due ragioni. La prima, lo scambio di informazioni tra paesi anche considerati paradisi fiscali, lo scenario internazionale è cambiato e quindi questo è un rischio di un accertamento delle violazioni tributarie commesse in anni passati. Secondo, l'utilizzo di queste disponibilità, chi ha disponibilità all'estero non le può utilizzare in Italia se non sostanzialmente autodenunciandosi e quindi chiaramente il valore di questi beni disponibili all'estero diminuisce. Ecco, adesso c'è l'accordo Italia-Svizzera che impone lo scambio di informazioni bancarie tra i due paesi. Sarà un incentivo forte per autodenunciarsi? Beh, è un incentivo fortissimo perché come si sa la stragrande maggioranza dei capitali detenuti all'estero in violazione di norme tributarie e in Svizzera. Quindi chiaramente sino ad oggi molti evasori confidavano evidentemente nell'attenuta del segreto bancario, non c'è più scampo, diciamo, in un certo senso. Non c'è più scampo. Ecco. Professor Maisto, oggi chi ha beni o attività non dichiarate all'estero, che rischi correre in concreto? Le sanzioni sono elevatissime, addirittura possono arrivare al 30% all'anno del valore delle disponibilità estere, le sanzioni penali per le violazioni tributarie commesse, le sanzioni per le redditi evasi, quindi si arriva quasi ad un esproprio della disponibilità posseduta all'estero. Senta, professor Maisto, ma la dichiarazione volontaria può essere applicata anche a beni e attività non dichiarati mai in Italia? Sì, perché questa è un po' una delle novità del provvedimento rispetto agli scudi fiscali degli anni passati e questa sanatoria può riguardare anche società e non solo persone fisiche. Ecco, ma questa norma si applica a tutte le violazioni commesse fino ad oggi? A tutte le violazioni commesse fino ad oggi, questo è uno dei punti salienti del provvedimento. A differenza dei tre scudi precedenti, adesso non c'è più l'anonimato. Ecco, in concreto per il contribuente allora che vuol far pace col fisco, che cosa cambia? Ma sono tre sostanzialmente i cambiamenti. Il primo che le imposte evase devono essere pagate in misura piena, seppure con delle sanzioni ridotte. La seconda che è importante è che questa dichiarazione di regolarizzazione comporta l'obbligo di dichiarare tutte le violazioni commesse. La terza è che, non venendo meno l'anonimato, se alla violazione tributaria hanno concorso altri soggetti, lei pensi alla persona fisica che è titolare di una partecipazione alla società italiana, evidentemente possono venire in luce anche le regolarità di altri soggetti, che però anche queste possono essere sanate con la volontà di scrocco. Certo. Ma la legge sul rientro dei capitali per quali reati prevede uno scudo? Tutti i reati che sono connessi alla costituzione di disponibilità mediante la violazione di norme tributarie, un messo versamento di ritenute, addirittura anche il reato di riciclaggio connesso evidentemente ai reati e alle violazioni tributarie. Cioè c'è un'apertura anche sul riciclaggio? C'è un'apertura sul riciclaggio per gli intermediari finanziari. Che poi in verità riguardano i grandi evasori che sono soprattutto le multinazionali, no? Più che i singoli. Ma devo dire che il tema riguarda in larga parte le persone fisiche, perché la disclosure viene fatta proprio per riportare in Italia i capitali delle persone fisiche ed è la sommatoria anche di piccoli patrimoni che poi fa i grandi numeri anche ai fini del gettito e della massa di disponibilità detenute all'estero. E quindi questo è un po' l'obiettivo, direi, il principale del provvedimento. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms. Molte sono le reazioni dei nostri ascoltatori. Mario, Roberto da Bergamo per esempio ci chiede: questo scudo colpirà piccoli capitali e sarà un mega flop per i grandi capitali, lo sanno tutti, è vero secondo te o no? Ma sai, fare previsioni è molto difficile. Certo. In questo caso gli scudi fiscali precedenti, come hai fatto notare anche tu, avevano un sistema di sanzioni molto basso. Hanno avuto un'adesione molto alta, però, perché comunque parliamo di un sacco di soldi che sono entrati, sono emersi, sono 150 miliardi. Questo qui ha diciamo sanzioni più alte. Sì. È l'obiettivo di recuperare tutto il gettito che è stato, diciamo, eluso, evaso. Sì, quello che abbiamo detto, sì. Ho delle perplessità sul fatto, appunto, che apre, per esempio, a reati, cioè riciclaggio, fatturazione falsa, tutta questa roba qua, in qualche maniera viene passata in cavalleria, diciamo. Secondo me questo è un tema. Le sanzioni alte e l'emersione del nome inoltre sono un freno probabilmente a un'adesione massiccia, però ripeto, potrei sbagliare, vediamo. Vabbè, perché in contemporanea c'è l'accordo con la Svizzera, certo, gli altri paesi europei che fanno da safe haven, cioè da paradiso fiscale in qualche maniera, sono sì, Liechtenstein sì, ma Lussemburgo no, per esempio. Però è sotto pressione dopo, però non l'ha ancora fatto. Dopo i Lux Files è difficile che Pietrangelo, che tu che dici? Io faccio come se stessi per inviare un SMS a voi, sì. E vorrei fare un'osservazione da bar, ed è questa, che è sicuramente corretta, ed è questa: ma non è che tutti quelli che sono in grado di fare soldi e produrre ricchezze in Italia, che fino ad oggi hanno portato i soldi in Svizzera, sì, vista la mala parata adesso, la loro capacità di fare soldi e di produrre ricchezza se la vanno a fare direttamente all'estero? Beh, questo è sempre possibile. Diciamo che poi i paradisi non è che sono finiti. No, ce ne sono tanti di paradisi, pieno, stiamo andando verso i più grandi. Io e te facciamo un trust all'estero in tre secondi, basta dare al commercialista giusto. Il problema è cosa ci mettiamo. C'è un nostro ascoltatore che ci chiede: ma per chi ha fatto i vecchi scudi cosa cambia? Niente. I vecchi scudi sono rimasti nell'anonimato, hanno sanato. Il problema è chi non li ha fatti in passato e che probabilmente adesso ha l'ultima occasione per farlo, perché dopodiché io penso il fisco comincerà una caccia molto serrata. Serratissima. Bisogna specificare sempre, per evitare demagogia, gogne, cose che non vanno bene, che avere un conto all'estero non è vietato. No, certo che no. Chiunque può avere un conto all'estero, basta avere i soldi, ovviamente, condizione sine qua non. Ed averli legalmente, certo, vanno poi dichiarati tutti i beni, le liquidità, le disponibilità mobiliari, eccetera, quello che abbiamo nel detto, famoso quadro RV della dichiarazione. Quindi è un passo o no verso l'ulteriore impoverimento dell'Italia? No, guarda che questa operazione della tassazione degli utili, per esempio, la stanno facendo tutti. C'è una gara. Padula ha detto una cosa giusta, cioè tutti gli stati, Pietrangelo, sono disperati alla ricerca di denaro. L'Unione Europea vuole tassare i giganti, no, di internet, sì, e non solo. Una domanda banale. Gli Stati Uniti pure. Una domanda banale. Falla. Ma se un povero uomo ha paura a comprarsi un'automobile particolarmente bella perché tanto sa che gli scatta il controllo fiscale, come puoi pensare che l'Italia possa procedere? Ok, allora, questa è una giusta osservazione alla quale veniamo di rispondere. Allora, se tu hai redditi, come suol dirsi, chiari e trasparenti, non ti devi preoccupare. Questo no. Naturalmente, siccome in Italia il fisco è sempre, no, double face, se tu ti compri l'auto di lusso, ahimè, 9 volte su 10 ti arriva un bel controllo e ti rompono le cosiddette scatole. E purtroppo è un sistema mal disegnato. E senza auto di lusso in giro significa che sono soldi in meno per meccanici, soldi in meno per chi vende le macchine. Sono quasi sempre meno per auto tedesche. Soldi in meno perfino per comprare i foulard con cui accompagnare le signore. Il foulard è interessante. Senti, Mauro da Lugano ci chiede. Da Lugano, bene. Sì, no, il problema dei frontalieri. Però diciamo che il problema dei frontalieri in realtà è un tema che per adesso è stato rinviato perché è una situazione ancora da definire con precisione. Sono le 9:29. La realtà è che è finita la festa in Svizzera, appunto, si sposteranno in altri paradisi. Questo certamente è possibile, chiaro, perché non credo che sia diminuito il numero dei paesi. Il numero dei paesi, diciamo, dei paesi aumenta e si moltiplica. Sono più a rischio, naturalmente sono più a rischio. No. Mix 24. Non arrossire, altra perla della playlist, Pietrangelo. Oh, non ci crederete, non ci crederete, ma stamattina in metropolitana c'era una comitiva portatrice di elettricità ed energia, una banda di ragazze e ragazzi proprio speciali. Erano ninfe e fauni, piedini aggraziati e zampe caprine, che si sono sparpagliate per i vagoni tra i pendolari, persi ciascuno nei loro pensieri, e una ninfa e un fauno tra loro si sono staccati da tutti e hanno abbandonato quel mondo di ferraglia in quell'istante e si sono intrappolati in un gioco di sguardi. E quindi il fauno, dalla testa tutta piena di ricci, ha preso tra le mani il volto della ninfa, ne ha bevuto a forza lo sguardo e questa volta è riuscito ad accendere in lei il rossore e poi il calore e poi il tremore. C'erano dunque quei due, c'erano i pendolari e c'era, come c'è adesso, Eros, nella forma mistica di questa canzone di Giorgio Gaber, Non arrossire. Trema per me. Bello, vero, eh? Mario, tu, quando è l'ultima volta che sei arrossito? Sei matto. Ah, va bene, ok. Ho capito. Bolle! When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are made of gold. Imagine Dragons, questo brano Demons, Diavoli. Quali sono i diavoli? Beh, tutti quelli che insomma col soldo ci giocano un po' troppo, magari un po' borderline. E sai a quanto ammontano le multe combinate dal governo americano alle varie banche che hanno provocato la crisi? Quante? 40 miliardi di dollari. Accidente. Una cifra mostruosa. Questo si aggancia molto al discorso che stavamo facendo, certo, prima sul fisco, perché tutti i governi, e sottolineo tutti, sono alla caccia disperata di soldi. Soldi. E dunque Obama ha trovato un modo, diciamo, per farne, perché l'ultimo accordo è quello di Morgan Stanley, 2.6 miliardi di dollari. La prima a pagare, i nostri ascoltatori lo ricorderanno, noi abbiamo dato puntualmente notizia di questo fenomeno, fu JP Morgan, che sborsò 13 miliardi di dollari, Citigroup ne ha pagati 7, Bank of America, Giovanni, 17, chi manca? Goldman Sachs, che pare arriverà. Sarà mai manca l'ultima, perché devono mettersi d'accordo. Sì, in un procedimento collaterale ha già pagato una piccola cifra, faranno anche loro, sai, hanno lavorato sul mercato con quella roba là, e quindi Obama è impietoso. E Salamini. Mi metto a mollo, ma non sto parlando del lumino bianco, bensì, vi ricordate? No. Tutto quel che fu non c'è più. Non c'è più. Non è possibile. E Balzac, che si firma, come sapete, su Repubblica con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa, lo racconta così. Io ti letto amore, tramonta il sole al cultivar. Allora, lo racconta così, però la musica non inganni. Doveva essere il caimano, no? Sì. Doveva essere il caimano pronto a tutte le uscite di scena, compresa quella tragica. Invece lui, il cavalier Silvio Berlusconi, affoga il suo cuore in un bicchiere di rum. Sono stanco, dice, sfiduciato, tutti tramano contro di me, ho voglia di mollare e di andare via. E infatti, dove? Giusto ieri, bastava passeggiare dalle parti di via Plebiscito, la scena era chiara. Una processione a Palazzo Grazioli. C'erano dirigenti, questuanti, restofanti, candidandi e candidati, capigruppo e senza gruppo, cerchi magici, nonché fuochisti, macchinisti, uomini di fatica, eppure quelli che aspettavano l'autobus per strada, tutti dentro, compresa... Scusate, giovinotti, io sono la bisnonna. Vai a te bene! Vai a te bene! Questa è stata la reazione di Silvio Berlusconi ieri. E quindi, ancora una volta, una sola idea. Io ti letto amore. Ecco, l'idea di Silvio Berlusconi è di abbandonare tutti e ha una sola destinazione in mente. Ha detto queste testuali parole. Oh, quella villa meravigliosa ad Antigua, dove sono stato una sola volta. Gli ha rovinato però il sogno Niccolò Guidini, perché gli ha detto: non è scontato che ti venga restituito il passaporto. E si sa, all'albero caduto capita addosso l'accetta. E mancano pure i soldi per pagare 5 mesi di affitto alla sede di Piazza San Lorenzo in Lucina. Soldi non ce ne sono, ma tutti quei questuanti una sola cosa cercano ancora. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere. Quella cassaforte che si chiama Silvio. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Oh, li hai tirate fuori tutte. Ammazza, oh, che revival. Sara, Sara, la nostra quota rosa. Ore 23.04. Laszlo e CMS scartano i regali. Subito dopo è intuibile che abbiano rapporti sessuali. Ah, questi artisti. Loro se la spassano. Sono molto più contento quando mi mandano a controllare artisti invece dei preti o quegli apostoli della pace. Laszlo concorda sul divieto di espatrio imposto. Pensavamo di essere liberi. Eh sì, liberi dal periodo storico raccontato nel film Le vite degli altri. E invece no, come racconta il Time. E appunto dice che Libert, non è uno scherzo, è il nome e il cognome del ricercatore. Libert, Liberty, Libertà. Un ricercatore appunto dell'Università della Pennsylvania ha scoperto che quando noi andiamo su Google alla ricerca di informazioni mediche, i data broker, le società di pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera, arrivano a sapere chi si cela dietro quel click, cioè tracciano il nostro indirizzo IP, che per chi non lo sapesse è un po' come il DNA informatico però dei nostri computer, e arrivano così ai nostri nomi e cognomi. E non c'è modo di difendere la privacy. Infatti, chi pensa di essere il più furbo e proteggersi usando la modalità ignoto di Google Chrome è un illuso. Secondo Liberty, infatti, non c'è scampo da una violazione continua della nostra vita privata. Però lui ci dà un piccolo suggerimento per tamponare almeno in parte questa emorragia di informazioni sensibili. Bisogna scaricare un browser, segnatevi il nome, che si chiama Ghostery. Keep control of me. Try to keep the frequency. Mario, ancora una bolla. Sì, dai, su. Allora, Uptown Funk questo, Mark Ronson e Bruno Mars, sono due molto bravi. Ma secondo te può funzionare, Giovanni, anche te Pietrangelo, su questo, un capitalismo dove si emettono titoli di Stato a rendimento negativo? Difficile. La Germania, per la prima volta in Germania, l'ha fatto. Ci vuole il massimo della fiducia proprio. No, ci vuole non solo il massimo della fiducia, ma diciamo la propensione a non guadagnare, cioè certo. Il valore facciale, per così dire, è inferiore a quello che sarà poi il valore reale, perché non ci sono interessi e quindi nel tempo la tua cosa non andrà come doveva andare in un sistema maturo come quello che dovrebbe essere il capitalismo, dove per forza tu qualcosa dovrai pur guadagnare avendo investito. Se non guadagni, o sei un pirlacchione che non è riuscito a fare bene i suoi investimenti, o sei stato sfortunato, ma in questo caso lo fai addirittura volontariamente. Certo. Bene, i titoli emessi di questo tipo, ripeto, la Germania lo fa per la prima volta, da quando le banche centrali hanno fatto questa politica dei tassi, che secondo me è arrivata al the end, alla fine, la situazione è che sono passati da 20 miliardi a 2 trilioni. Domanda, quanto può durare? Cosa può ancora produrre tutto questo, tutta questa carta addirittura negativa, cioè negativa, è carta che nega se stessa. Non lo so, a me hanno insegnato delle cose diverse a scuola, ma evidentemente vedremo. Non ci capisco niente. Il canzoniere. Lucio, che mi è qui in sulla Marritta. La casa è d'un dottore che imparò in sul Buezio, legge assai. Quella via che colà in quel canto fitta è la via dello amore, dove chi casca non si rizza mai. Conoscer poi potrai, all'abito d'un frate, qual priore o abate abita il tempio che all'incontro è posto, se da qui non ti parti troppo tosto. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, aiutino. Facilissimo. Intanto Firenze. Poi, con un ulteriore aiuto? Ancora uno piccolo. Non si attaglia l'attuale premier. Malgrado, io sto per rispondere Renzi. No, non si attaglia all'attuale premier, ma nonostante lui voglia. Va bene, speriamo che dopo la pubblicità qualcuno indovini. Mix 24. Mario, la bolla? Sì, andiamo in macchina, ma un po' fast e un po' lenta. Sentiamo. Questo è un classico, eh? Tracy Chan. Piace anche a Buttafuoco, senti. Ti piace. Allora, Cars. Però partiamo da un titolo tecnologico. Facciamo cronaca, non diamo ovviamente consigli, perché non è il nostro mestiere. Io segnalo solo che Barron's, che è la Bibbia della finanza di Wall Street, dice che i titoli di Apple quest'anno cresceranno del 32%. Mamma mia. Daranno un bel guadagno ai suoi investitori, quelli della mera. E roba tosta, ovviamente. Perché? Perché è in vista poi lo sbarco, tra qualche anno, non subito, nel settore dell'auto. Stanno studiando, sì, l'automobile. 200 ingegneri, di 200 tipo. Ricercatori. È molto interessante, però, lo riportava stamattina Financial Times, una dichiarazione di Bodo Webber, che è il numero uno di Mercedes, che ha detto di essere contento dell'ingresso di Apple tra i produttori di auto, dicendo: sarà un'opportunità di crescita per tutti nel mercato. E una ragione c'è, perché i giovani tendono più a non possedere la macchina, ma a investire il loro denaro invece in tecnologia. Quindi non vogliono un'auto di proprietà col marchio tradizionale del grande produttore d'auto, ma probabilmente ci sarà una propensione ad avere un'auto col marchio Google, col marchio Apple, col marchio naturalmente che ha un appeal completamente diverso. Sì, perché design e tecnologia in tutti i settori che si stanno digitalizzando sempre di più convergono. Questo è il punto chiave, sarà il vero fattore determinante della produzione. Cambierà il mercato delle automobili. Sì. Salamino. C'era una volta un re, e che re aveva la reggia a Napoli, quindi a Caserta, e poi, in omaggio al lavoro, alla terra prodiga di felicità, a Carditello. Era anche reggia di caccia, disegnata da Francesco Collecini, al centro di una tenuta di oltre 2000 ettari, descritta, e lo ricorda oggi Gian Antonio Stella sul Corriere, descritta da Goethe come l'aiuola di un giardino. Razziata, stuprata, sfasciata dalla cieca ignoranza, ebbe, ed è un racconto di Nadia Verdile nel libro Tre secoli di fasti, feste, forti e aste, il colpo di grazia nel 2008. È incredibile. Nel 2008 il Real Sito fu inglobato nell'area destinata alle discariche, e quindi da reggia diventò città della monnezza. Nel gennaio del 2014 l'allora ministro dei beni culturali Massimo Brai decise di acquisire la reggia per ripulirla e restituirla al suo destino di fasto. Risultato: i restauri sono cominciati, adesso rallentati, e con questi sono arrivate le minacce a Massimo Brai: smettila di occuparti di Carditello. Minacce anche a Nadia Verdile: smettila di occuparti di Carditello. Allora, io faccio una cosa, metto adesso e vi faccio ascoltare l'inno dei sanfedisti e dico: comincio a occuparmi anch'io di Carditello. Allo suono campana, viva viva la Bravo suonerò violino, martelli già qui. Bene, abbiamo un'altra battaglia culturale. Intanto Davide da Monza. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, come sta? Molto molto bene, sono molto molto onorato di parlare con voi. Noi anche con lei. Allora, ha indovinato? Sì, credo almeno, è la mandragola di Machiavelli. Giusto, bravissimo. Iddio vi salvi, benigni uditori, giusto. Senta, che fa di bella Monza? Guardi, in questo momento sto andando a Milano, sto andando all'università. Ah, perché studia o insegna? No, perché studio, sto scrivendo la tesi in realtà. Ah, in letteratura latina, sulla didattica, su come insegnarlo il latino. Accidenti, e poi il sogno sarebbe proprio insegnarlo al latino, vediamo come va, insomma. Accidenti, la prende larga, eh. Auguri allora, auguri. Grazie, per la sua vita. Grazie. Oggi vi raccontiamo la storia di Oscar Pistorius, l'atleta che tutti ricorderete, l'atleta senza gambe, che ha vinto 6 ori, un argento, un bronzo alla Paralimpiade di Atene a Londra, che è stato il simbolo della tenacia che vince sui limiti della natura. Oggi però è noto soprattutto per l'omicidio della sua compagna Riva, per cui è stato condannato a 5 anni di reclusione. Bathroom, the door was closed of the toilet and the window was open. Ho sentito dei rumori dal bagno. Continuavo a pensare che qualcuno sarebbe uscito. Poi ho sparato 5-4 colpi alla porta. Ho spalancato la porta con violenza. Mi sono seduto sul corpo di Riva e ho pianto. Non so per quanto tempo sono rimasto così. Lei non respirava più. È una storia avvincente, tragica, drammatica, che ha diviso praticamente il mondo in due. E questa nostra storia è stata realizzata per noi da Rachele Bonanni e subito dopo il giornale radio, a cura di Malina Milone, che ha intervistato Luca Pancalli. Ma intanto, Mario, c'hai ancora una notizia? No, più che altro c'è una riflessione da proporre a voi due. Insomma, c'è questa storia delle torri, no? Mediaset Raiway, cioè Mediaset, sì. Una controllata di Mediaset vuole, sì, ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto per le torri di Raiway. Sapete tutti che Raiway è stata collocata per un pezzo. E c'è tutto un gran dibattito se se le debba comprare o no. Allora, ragazzi, è il mercato. Certo. Se tu vai in borsa, quoti una tua società, poi non è che puoi impedire a un altro di fare un'OPA ostile o amichevole. Primo punto. Secondo punto, l'Italia è uno dei pochi paesi dove ci sono due operatori in quel settore, quando in tutti i paesi ce n'è uno, sostanzialmente. Terzo punto, e alla tutte lunga le stime sono positive su questo, cioè è una cosa che andrebbe bene, non capisco perché non si debba questa fare. Questa è un'analisi economica, no? Che è molto interessante. Oggettiva. Economica. Io la prendo da un altro punto di vista e penso che, non avendo mai voluto affrontare il problema del conflitto di interessi, che è dato dall'intreccio tra un approccio economico e la politica, questo conflitto di interessi prende la sua vendetta e oggi sostanzialmente non aver affrontato il conflitto di interesse porta a una situazione che dal punto di vista economico invece non ha nessuna esatto. È una nemesi storica di Ma Pietrangelo. Non potrebbe essere questa decisione di intervenire così pesantemente acquistando il segnale chiaro dell'uscita di scena dalla politica di Berlusconi, è una di tornare a essere un imprenditore? È una possibilità. Non lo sappiamo, è una possibilità. Certo, ha fatto soldi perché ha venduto quote di Mediaset, è liquido, ha del cash e lo investe, e qui vedo io questa anemesi storica abbastanza interessante. Ma per finire ci vuole orecchio di Gannacci. Bisogna avere orecchio, bisogna avere certe cose, bisogna avere